Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Gruppo Cannillo. Grande distribuzione, ma non solo, da oltre 50 anni. Di Adriano Palazzolo. Oggi vi portiamo indietro nel tempo fino al 1969. È l'anno dell'allunaggio. Per la prima volta un essere umano mette piede sulla Luna. Si tratta di Neil Armstrong, che passerà alla storia con la celebre frase «Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità». A oltre 380.000 km di distanza, sulla Terra, in quello stesso anno, un altro uomo fa un piccolo passo. Certo, non grande per l'umanità intera, ma sicuramente molto importante per la sua famiglia. È Franco Cannillo, figlio di un commerciante di mandorle e olive che a Corato, in provincia di Bari, aiuta il fratello nell'attività di vendita all'ingrosso di detersivi e prodotti coloniali. Da questo piccolo esercizio commerciale nasce quello che oggi è un gruppo con 519 punti vendita, 2.200 dipendenti, due impianti di produzione e un fatturato complessivo ben oltre gli 800 milioni di euro. A raccontarci questa storia è il figlio di Franco, Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora Despar Centro Sud, una delle aziende di famiglia che opera nel core business del gruppo, la grande distribuzione. 51 anni fa, in una Corato, che è la cittadina in cui l'azienda è stata fondata, in cui attualmente c'è ancora la sede principale, mio zio, il fratello più grande di mio padre, considerando che mio padre è settimo di sette figli, ha avviato un'attività di rivendita all'ingrosso di detergenza e di beni di detergenti di coloniali. Mio padre all'epoca andava al liceo, però aiutava il fratello nel portare avanti la parte amministrativa dell'azienda, che all'epoca era un'attività molto più semplice di quella attuale. Quindi dall'età di ancora minorenne mio padre ha affiancato mio zio in questa attività. Col tempo poi si è unito anche un altro fratello di mio padre all'impresa e si è costituita poi nel 73 la Fratelli Cannillo SNC. Erano appunto tre fratelli, ognuno si occupava di un'attività, ma si può sempre dire che mio padre sia stato la mente di questa attività. Intanto in Italia entra in vigore l'IVA. L'attività ha bisogno di una struttura organizzata. Franco abbandona gli studi universitari e si dedica all'azienda di famiglia. La piccola bottega diventa un deposito che inizia a servire una clientela sempre più vasta, anche nelle regioni vicine. Negli anni Ottanta, i due fratelli Sergio e Aldo lasciano l'attività a Franco, che viene aiutato nel lavoro dalla moglie Nicolangela. Mio padre invece è un fiume in piena, comincia a investire per realizzare punti di vendita. Infatti nei primi anni Ottanta, dopo la divisione, cominciamo ad aprire punti di vendita al dettaglio, dapprima con le insegne Maxi Gigad, poi si affianca un'insegna storica degli anni Ottanta per il nostro territorio che è stata Bonmerc, quindi arriviamo ad avere una rete composta da circa 40-50 punti di vendita. Parliamo di punti vendita di piccole dimensioni, alle volte superette di paese, che hanno fatto poi la storia della distribuzione in un territorio fatto anche di tanti piccoli comuni. In quegli anni appunto estendiamo l'assortimento anche a tutti i prodotti del food, offriamo un assortimento completo sia per i nostri punti vendita diretti che per i nostri affiliati, che nel frattempo diventano sempre di più. Quindi negli anni Ottanta alla rete dei punti di vendita diretti si affianca anche una rete in franchising grazie alla collaborazione di tanti piccoli imprenditori sparsi nei comuni del nostro Sud Italia, del nostro Mezzogiorno. Negli anni 90 arriva la diversificazione per gli affari di famiglia, prima con i cash and carry, poi con investimenti nel mercato immobiliare, con la realizzazione di fabbricati residenziali e commerciali. I sogni di Franco non si fermano qui, perché fonda anche la Mr. Kenny, che produce e commercializza cereali per la prima colazione, un'esperienza pressoché unica nel panorama industriale del Mezzogiorno. Intanto, nella gestione delle varie attività, in supporto ai genitori, arrivano al lavoro anche i figli, Pippo e Ileana. negli anni 2000 facciamo l'ingresso in azienda sia io che mia sorella e consolidiamo quella che è l'azienda che aveva creato mio padre. Continuiamo a espanderci nei settori appunto già tracciati, quindi continuiamo ad aprire punti di vendita, nel frattempo cambiando insegna. Negli anni 90 e negli anni 2000 abbiamo operato con l'insegna Di Meglio che abbiamo contribuito a fondare e nell'ambito industriale continuiamo ad operare nel settore della prima colazione. Lo stesso facciamo sul lato real estate, continuando a realizzare importanti opere di edilizia privata, sia residenziale che commerciale. Sicuramente col nostro ingresso si è data una forma più strutturata a quello che era l'idea imprenditoriale, l'intuito dei nostri genitori, ma abbiamo proseguito sempre nel solco di ciò che era stato già tracciato, nel senso che i valori, la missione, la visione dell'azienda è rimasta inalterata, ma sicuramente attraverso le competenze acquisite, sia quelle scolastiche che quelle esperienziali, abbiamo dato una forma più strutturata e più consona alla dimensione che nel frattempo l'azienda acquisiva. Il gruppo Cannillo supera indenne la crisi economica proprio grazie alla sua diversificazione con aziende in vari settori. A soffrire è il real estate, ma la grande distribuzione non subisce grosse contrazioni dei profitti. Le dimensioni raggiunte spingono a un'apertura al mercato, in cerca di realtà che possano accrescere ancora il valore del gruppo. Il ramo commerciale di Cannillo si fonde con IPA Sud, nasce Maiora, uno dei maggiori protagonisti nella distribuzione del centro-sud Italia. Decidiamo pertanto di intraprendere un percorso di partnership con un'azienda nostra concorrente, si può dire, ma io direi innanzitutto fatta da colleghi, in quanto quando c'è stima e professionalità innanzitutto sia colleghi e poi concorrenti, e quindi decidiamo di metterci insieme nel 2012 con l'azienda IPA Sud di Barletta della famiglia Peschechera e fondiamo Maiora, quella che oggi è una delle realtà principali della GDO del centro sud Italia. Innanzitutto si è dovuto vincere una remora di molti degli imprenditori del sud, cioè quella di appunto aprirsi e confrontarsi con altri imprenditori, ma superato questo primo scoglio psicologico abbiamo da subito individuato la presenza di tantissimi punti di forza in questo progetto e quindi abbiamo dato vita a questa realtà. Si può dire che è tra le poche realtà al di là del nostro settore qui nel sud Italia di un successo nell'integrazione tra due realtà imprenditoriali familiari. L'operazione porta a un notevole incremento dei punti vendita, a cui si aggiungono anche altre acquisizioni, nuove aperture in franchising e dirette, con le insegne Despar, Eurospar, Interspar, senza dimenticare il canale Cash & Carry. Parallelamente cresce il ramo dell'industria alimentare. I cambiamenti per Mr. Kenny arrivano nel 2015, quando il gruppo Cannillo acquista Torre Bianca Cereali Italia, storica società produttrice di uova di Pasqua e barrette ai cereali. Entriamo nel settore delle barrette di cereali, oltre che dei cereali fioccati. Nello stesso stabilimento questa azienda produce, che nel frattempo era diventata Cereali Italia, produceva e produce ancora uova di Pasqua. Pertanto nel tempo Mr. Kenny e Cereali Italia crescono assieme offrendo al mercato appunto un assortimento più completo, quindi cereali, barrette e appunto cioccolato. Col tempo poi intravediamo l'opportunità di acquisire il ramo dolciario di un nostro importante cliente come Preziosi Food, che aveva nel marchio Dolci Preziosi un'importante presenza nel mercato delle ricorrenze pasquali, e quindi nel 2018 concretizziamo, poi finalizzata nel 2019, concretizziamo l'acquisizione anche del brand Dolci Preziosi. Quindi attualmente la divisione industriale Cereali Italia Industrie Dolciarie opera con vari brand, tra cui Dolci Preziosi, Cereali Italia ed altri, non dimenticando anche la collaborazione con importanti aziende della GDO per la realizzazione di private label, quindi di prodotti a marchio della distribuzione. Il gruppo possiede anche un'azienda che opera nella logistica, un settore mai abbandonato dagli anni del puro ingrosso. È un'azienda sinergica al gruppo, dal momento che serve esclusivamente le altre controllate, Ma Pippo Cannillo, voce narrante di questa storia, non esclude di cogliere prossimamente le opportunità che il mercato può offrire. Guardando al futuro, la famiglia ha già una terza generazione, ma è ancora presto per pensare a un suo ingresso nel gruppo. Già esiste una prossima generazione. C'è mio figlio Francesco che ha quasi 2 anni, non sappiamo certamente quello che vorrà fare da grande, ma quello che possiamo fare è sicuramente con l'esempio mostrargli quelli che sono i valori su cui abbiamo costruito quello che appunto abbiamo realizzato in questi 50 anni, a partire dalle intuizioni del nonno e col metodo del padre. Poi sarà lui a dover decidere quale sarà la sua strada. A noi potrà fare sicuramente piacere se dovesse continuare a percorrere questa, ma ci farà altrettanto piacere se dovesse intraprendere altre strade. L'importante è che lo faccia con serietà, con professionalità e con ambizione, la giusta ambizione, diciamo, che ci vuole per portare avanti qualsiasi percorso professionale. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.